9 in punto, la versione di Oscar. Di energia, questo era Brian May, Guitar Gold, suonava al Buckingham Palace per la Queen Elizabeth Golden Jubilee del 2002. Perché comincio con questo inno che per noi anglosassoni mercatisti ha una certa importanza, visto che quello è il primo paese in cui a un certo punto si tagliò la testa a un re per ricordargli che le tasse erano troppe, tanto per cominciare. Perché ci sono due paesi che crescono con un certo tasso di crescita un po' superiore al nostro nella grande Europa in questo momento: la Germania, di cui abbiamo parlato tante volte, però ce n'è uno che è anche il Regno Unito, che non ha la produttività della Germania, aveva il deficit all'11%, esce da elezioni in cui i britannici erano incerti, lo sapete, un governo di coalizione guidato da David Cameron con i Lib Dem Cleggs. Eppure questo governo, sia pure incerto nelle prospettive e nella durata, non ha avuto molte esitazioni e in pochi mesi ha varato la manovra di correzione della finanza pubblica britannica più rilevante dell'intero secondo dopoguerra di quel paese. Ha superato la Thatcher, ha tagliato la spesa pubblica per 94 miliardi di euro, il deficit scenderà dall'11% del PIL al 2% del PIL, risultato 490 mila dipendenti pubblici verranno mandati fuori dal perimetro, non verranno più pagati dal contribuente, i ministeri in media tagli del 19%, c'è chi arriva al 28% in termini reali. Immaginate cosa sarebbe successo se tutto questo avveniva in Italia. Ulteriore conseguenza: mentre tutti i keynesiani, gli obamiani, i krugmanisti, tutti coloro che dicono che quando c'è la crisi è maggior ragione Stato, tasse, Stato, ecco, invece no, al contrario, l'economia britannica dimostra che tagliando energicamente, una volta che si dia al contribuente l'idea che c'è un governo serio, non si torna indietro e le tasse resteranno quelle stabilite ma che scenderanno le spese, ecco che il tasso di crescita continua a essere quello per due trimestri superiore da 10 anni a questa parte in Gran Bretagna, superiore al 2% e il 2,8% su un anno fa. Ieri sono usciti i dati del secondo trimestre, risultato: il vecchio Keynes è confinato in soffitta. Quando si fa sul serio, si fa sul serio, e tagliando l'eccesso di spesa si può crescere di più. Perché dico questo? Perché di fronte a governi determinati, a situazioni politiche complicate da debito pubblico, da gravi problemi, è ovvio che l'orientamento politico dei cittadini cambia e si orienta meglio quando ci sono dei politici che mostrano di avere le idee chiare, quando ci sono dei politici che magari dividono con le loro idee chiare ma che affrontano le situazioni senza sottrarsi alla giusta responsabilità e al dovere di consegnare soluzioni in tempi rapidi, perché il mondo di oggi chiede a tutti analisi e capacità di dare risposte in tempi rapidi. E se invece diamo un occhio alla nostra Italia, ecco che di mese in mese, dall'estate in avanti, man mano che la situazione si ingarbugliava, si complicava tra Fini, Tremonti, Berlusconi, i lodi, non i lodi, se la legislatura durava o meno, ecco che inevitabilmente nei sondaggi è cresciuto il numero di tutti voi in ascolto che vi siete dichiarati in numero crescente, sempre più indecisi, incerti, astenuti se si andasse a votare, con le palle che vi giravano. Allora, di fronte a questa situazione, noi oggi abbiamo deciso di parlare per una volta della politica, non sulle cronache del giorno per giorno, il lodo non il lodo, il legittimo impedimento, se Fini sia sereno e felice dopo l'archiviazione di ieri, oppure se, come scrive il giornale Libero, è un mezzuccio. No, andiamo al nocciolo della questione. Io voglio chiedere ai tanti di voi che sono astenuti, indecisi, scontenti, e pare che la percentuale nei sondaggi sia oramai prossima, se non superiore al 40%, come e perché vi regolerete e vi regolereste nel caso in cui poi tra poco davvero andiamo a votare, se vi sentite in colpa per la vostra indecisione e astensione, o se invece non state ragionando seriamente di insistere in questa posizione, se questa non sia oltretutto anche una posizione più netta e chiara di quella del votare solo in nome del meno peggio, che è una buona regola sempre in democrazia, visto che il bene assoluto non c'è, se cioè davvero siamo in presenza di un fenomeno che, rispetto alla storia italiana, che per lunghissimi decenni vedevamo tassi di partecipazione alle elezioni al 90% o poco meno, sia la fine di questa lunga fase di scazzonte Seconda Repubblica Italiana, un grande nuovo partito di coloro che non ci stanno. E per iniziare a parlare di questo ne parliamo con un politologo che è tornato recentemente esattamente sull'analisi di questo fenomeno, il professor Roberto Dalimonte, che insegna sistema politico italiano all'Università di Firenze, editorialista del Sole 24 Ore. Professor Dalimonte, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, questo fenomeno è nuovo rispetto alla storia italiana, che aveva un alto tasso di partecipazione, o in realtà in questo, poi non ci montiamo la testa, ci sono coordinate di fenomeni analoghi nell'Europa colpita dalla crisi di questi tempi? Dunque, certamente ci sono anche in altri paesi europei. In Italia si è storicamente votato più che in altre democrazie. Per quanto riguarda poi la novità del fenomeno, in realtà la partecipazione elettorale sta calando in Italia dalla fine degli anni 70. Fino alla prima metà degli anni 70, come ha ricordato lei, andavano a votare il 90% circa. Da allora è cominciato un trend discendente, quindi l'astensionismo ha cominciato a salire e questo trend non si è più fermato. Ci sono stati rallentamenti, accelerazioni a seconda dei casi, ad esempio nel caso di elezioni anticipate si è visto che di solito c'è un'accelerazione del calo della partecipazione, però il trend è quello verso la diminuzione. E l'altro aspetto che va sottolineato è che più di recente, pur restando un gap nell'astensionismo fra nord e sud, ci si astiene di più al sud rispetto al nord, e questo gap si sta chiudendo perché sta aumentando maggiormente l'astensionismo al nord rispetto al sud. Oh, lei ha scritto anche che c'è un dato, per così dire, che emergeva negli ultimi anni nel fenomeno del non voto. E lei dice, si vota, l'ha scritto pochi giorni fa, si vota sempre di meno perché anche gli elettori più istruiti e meno lontani dalla politica sono stufi di questa offerta politica. Sì, questa è la novità qualitativa nel fenomeno astensionista. Prima erano, diciamo, gli elettori più periferici, quegli elettori socialmente emarginati che non andavano a votare. Adesso invece si nota proprio che c'è un astensionismo da persone istruite, da persone colte, gente appunto che ormai ha maturato una sfiducia nei confronti della politica e quindi e nel voto, una sfiducia anche nei confronti del voto, della politica in generale, e quindi non va a votare. Questa è una novità, certamente. E da quello che si capisce nei sondaggi, negli studi demoscopici di flussi che lei ha visto più recentemente per capire meglio questo fenomeno, sull'asse destra-sinistra-centro, questa parte di elettorato più corta, chiamiamola così, ma anche con rispetto poi, perché non si misura solo con il titolo di studio, in realtà è più espressione di una delusione del centrodestra nei confronti delle promesse mancate, del vasto mandato che era stato attribuito al governo e poi delle complicazioni recenti e ulteriori, oppure è un fenomeno che si vede trasversalmente in tutte le famiglie politiche a cui si riferiscono gli elettori quando dichiarano il loro orientamento? Dunque, per quanto riguarda, noi abbiamo dei dati molto buoni per quanto riguarda le elezioni del 2008, nel caso delle elezioni del 2008 si notava nettamente un aumento dell'astensionismo di sinistra, mentre adesso invece sembra dati di sondaggio che ho visto di recente che sia più un fenomeno trasversale, cioè che questa sfiducia ormai abbia toccato anche l'elettorato che una volta votava PDL, quindi è diventato un fenomeno trasversale in questa categoria di persone, però siamo ancora lontani dal voto, non si sa quanto lontani dal voto, e quindi bisogna prendere questi dati con cautela, perché quando poi si entra in campagna elettorale gli orientamenti cambiano. Oh, la tendenza, per così dire, tra le diverse classi, tra quelli che votano per la prima volta o meno, ci fa capire qualcosa o anche lì è semplicemente un fenomeno che si espande ma non ci sono rotture tra i giovani rispetto a quelli che hanno più anni? Anche qui ci sono dei mutamenti, c'è qualche mutamento, non c'è una rottura vera e propria ancora, però qualche mutamento c'è. C'è una tendenza tra i giovani a rifiutare il voto, un po' più marcata, ma ripeto, siamo anche qui in una fase, come dire, per ora di continuità, di non vera e propria rottura. E secondo lei qual è la soglia, alla luce ovviamente delle tendenze evolutive dell'ordinamento italiano, dei suoi tassi di partecipazione, delle sue caratteristiche anche di offerta politica nella prima e nella seconda Repubblica, ma qual è la soglia oltre la quale questa tendenza, che lei dice è in evoluzione ma con delle costanti nel tempo, potrebbe invece oltre quella soglia rivelare che c'è un elemento di rottura vero? Ma diciamo che prendiamo un dato certo, che è quello della partecipazione elettorale nelle elezioni 2008, che si è attestata all'80%, che è un dato comunque, lo dicevo poco fa, comparativamente, cioè comparandolo con altre democrazie europee e anche non europee, è un dato comunque elevato e non perdiamo di vista questo aspetto. Diciamo che se alle prossime elezioni scendessimo intorno al 75%, allora il segnale sarebbe molto preoccupante, perché saremmo di fronte ad un'accelerazione del fenomeno molto molto significativa, una perdita di 5 punti nel giro di 2-3 anni, adesso dipende da quando si andrà a votare, insomma sarebbe un salto. Lei dice più o meno così, e se lo aspetta in quello che ha visto? Io mi aspetto senz'altro che il fenomeno continui, che quindi ci saranno meno elettori che vanno a votare. Quanti meno, ripeto, dipenderà molto dalla campagna, da quando si andrà a votare, questo è molto importante, dal come si andrà a votare, e quindi vedere l'offerta politica, quale sarà l'offerta politica delle elezioni del 2000, quando? Del 2011, del 2013? Sì, questo boh, saperlo. Esatto. Per così dire. Esatto, e come fai il 5 più 1 oramai, più o meno? Siamo... Esattamente, perché faccio un esempio, se l'offerta politica sarà del tipo una grande coalizione che va da Vendola a Fini, l'ipotesi scalfariana, per intenderci, contro una coalizione Berlusconi-Bossi-Storace, questo comporta un certo rischio di fughe elettorali da parte di elettori che non si riconoscono, soprattutto in una grande coalizione appunto di tipo scalfariano. Un altro conto, ad esempio, se l'offerta politica fosse impegnata su tre poli, un polo di sinistra che comprendesse Vendola, e un polo di centro e un polo di destra. Quindi dipende molto dall'offerta elettorale, poi dipenderà molto dalla campagna elettorale, dal tipo di campagna elettorale, dalle issues, dal momento. Quindi è difficile dire quanti punti in meno percentualmente partecipazione ci sarà. Sicuramente non ci sarà un aumento della partecipazione, ci sarà un declino della partecipazione. Torneremo più avanti, professore, su quanto è durato l'effetto del quando abbiamo cambiato tra prima e seconda Repubblica, l'effetto dei referendum, della partecipazione, della preferenza unica, poi del maggioritario, sì, poi del sistema bipolare, perché quello in effetti è stato un effetto che ha attraversato la società italiana. Perché il problema è naturalmente che c'è chi dice bisogna tornare a quello spirito, l'unica maniera per invertire il processo è non solo determinare un cambio dell'offerta politica alle condizioni attuali, ma anche cambiare le condizioni attuali. Ci torniamo perché adesso si è collegato con noi il sindaco di Firenze, Matteo Renzi. Buongiorno sindaco. Buongiorno a lei, buongiorno al professor Dalimonte e agli ascoltatori. E io personalmente intendo portare il mio piccolo obolo di considerazione al sindaco di Firenze, perché so che nelle forme organizzative e tradizionali dei partiti gli amministratori che sono stati eletti rompendo, diciamo, dal basso gli schemi partecipativi e del dibattito interno al proprio partito sono sempre visti con un punto di interrogativo, e quando poi continuano ad essere fedeli al mandato, un mandato di rottura preso sul campo come ha fatto il sindaco di Firenze, è ovvio che sono destinati a suscitare dibattito, a suscitare incomprensione. I leader storici dei partiti iniziano a dire: ma questo cosa cavolo vuole, rompe le scatole, non porta rispetto perché si esprime in una maniera fuori dal canone tradizionale della politica, anche quella innovata. E allora io ho scelto proprio lui perché il sindaco di Firenze mi piace, perché dice pane pane vino vino, dice comunica troppo, fa poco, intanto sa comunicare e capisce meglio cosa vuole in testa la gente. La mia opinione è che esponenti politici come Matteo Renzi nella sua parte politica tentano di dare una risposta al fenomeno di cui stiamo parlando oggi, cioè quello della gente che si scoccia, si scazza, si allontana, perché dice: ma di che cosa parlate? Non di quello che importa a me, state parlando di cerimonie lontane. E tento di dire anche, prima di fargli la domanda, che non lo fa in maniera qualunquista, perché ci sono dei modi diversi. A me non piace tanto per niente, anzi l'eccesso di populismo che c'è di qua e c'è di là, c'è sopra e c'è sotto oramai, perché non è solo più Grillo e Di Pietro, c'è dovunque l'eccesso di populismo, perché lui è pure amministratore, quindi poi alla fine robe concrete deve fare. Però ecco, l'idea poi dei rottamatori, per così dire, è un'idea che prende uno dei punti di fondo della politica italiana, cioè l'eterno ritorno è sempre uguale. Allora, chiedo al sindaco di Firenze, primo, quanto lo preoccupa il fenomeno degli astenuti, secondo, quanto la sua stessa esperienza politica, nuova, diversa, un po' rompiscatolesca, è una risposta proprio a questo. Terzo, i rottamatori cosa vogliono fare? Andando rapidissimo, dico che l'astensione è il principale problema oggi, perché c'è un sentimento che non è soltanto di astensione, è proprio di rabbia, di insofferenza, di disgusto verso la cosa pubblica. E questo credo che dovrebbe pubblicare, che dovrebbe davvero essere un problema per tutti, non solo per una parte. In questo è come se ci fosse un fiume dell'antipolitica che cresce, o tu trovi dei luoghi, dei punti dove rompi l'argine e fai una sorta di cassa d'espansione naturale, cioè fai uscire un po' di quest'acqua, alla fine sommerge le città. Faccio degli esempi molto banali. Il tema del non rinnovo dopo tre mandati che noi abbiamo posto come i cosiddetti rottamatori, ma anche se si vuole dimezzare immediatamente il numero dei parlamentari, hanno sicuramente un profilo, un rischio di demagogia, perché uno dice, beh, è troppo facile sparare nel mucchio, ma sono la risposta estrema a mali estremi, e come dicevate voi prima nel corso della trasmissione, questo è un momento nel quale la gente è veramente stupita, non mi piace dire la gente, mi piace dire i cittadini, sono veramente sconvolti e stupiti. E allora, io credo che rispetto alla la verità dei fatti sia sotto gli occhi di tutti, a prescindere da come votiamo, c'è una classe politica che non riesce più a rispondere ai problemi reali delle persone. Si parla delle case, delle società offshore, ma non si parla delle realtà che riguardano, come dire, la quotidianità del nostro paese. Per uscirne, io non credo che si debba gettare la croce addosso al fatto gli italiani non ci seguono. Gli italiani hanno tutte le ragioni per non seguirci. E faccio un esempio banalissimo e concretissimo. Oggi la crisi di rappresentanza non riguarda soltanto i partiti, non riguarda soltanto gli amministratori, ma riguarda anche le associazioni di categoria, riguarda i sindacati, riguarda i soggetti che fino a 20 anni fa rappresentavano le città. Quando a Firenze abbiamo deciso di convocare i cittadini senza il tramite delle associazioni di categoria, dei partiti e dei sindacati, per discutere delle proposte per la prossima Firenze, quindi abbiamo fatto 100 assemblee in 100 luoghi nello stesso momento, in contemporanea, aspettavamo 1000 persone, sono arrivate 10.350 persone, cioè i cittadini voglia di partecipare l'avrebbero, ma hanno bisogno, come posso dire, di trovare persone che non soltanto dicono pane al pane e vino al vino, ma anche che possono tornare a dare un piccolo segno di speranza. In questo senso la politica di oggi è disperante, perché i leader nazionali sono sempre gli stessi, lì da 16 anni sono aggrappati agli strapuntini e non, in un mondo normale i partiti rimangono gli stessi e cambiano i leader. In Italia i partiti cambiano nome, cambiano denominazione, cambiano regole del gioco, ma i leader sono gli stessi di 16 anni fa. Questo è francamente inaccettabile. L'esperienza dei rottamatori è una forma per sopravvivere a una difficoltà che non si sa quanto durerà nell'attuale centrosinistra, in attesa di capire come si mette l'offerta politica e le regole stesse del voto, oppure è una cosa su cui puntare davvero le carte per dire tanti lo hanno detto ma noi ci proviamo davvero e questo diventa la nostra identità per un po' di tempo finché non riusciamo a portare a casa una discontinuità vera nella rappresentanza politica e nella coerenza tra il dire e il fare? Io avrei tutto l'interesse a stare buono, secondo gli schemi della vecchia politica, io avrei tutto l'interesse a stare buono rannicchiato in un angolino, perché tanto prima o poi nel deserto dei tartari della politica italiana uno dice vabbè, sai che c'è, andiamo a cercare qualche amministratore locale. Il punto però veramente centrale, che è il punto più problematico per quello che mi riguarda e che ci riguarda, è che questo tipo di atteggiamento rinunciatario e un po' egoista è un atteggiamento che non funziona più. In altri termini, di fronte a un disastro come quello che stiamo vivendo, uno non può dire vabbè, io mi faccio il mio piano strutturale a volumi zero o ragiono del futuro dei beni culturali a Firenze. C'è bisogno di qualcosa di più, perché noi non siamo amministratori di condominio. Allora il desiderio è quello di provare davvero a capire se, dicendo cose che nel centro-sinistra non si sono mai dette, perché nessuno maledetta del centro-sinistra che tra D'Alema e Veltroni è l'ora di finirla con questo derby pluriennale, ed è bene che tutte e due vadano a guidare delle fondazioni, a dare il loro valore nei grandi incontri internazionali, ma che lascino entrambi subito il Parlamento. Bene, subito, appena finisce il mandato, dico D'Alema e Veltroni, ma potrei dire altri nomi. Dicendo queste cose, noi abbiamo cercato di aprire un dibattito che non sia però soltanto sul cambiare le facce, rinnovare le facce, che pure è importante, ma anche su cambiare le idee e il linguaggio. Sono 16 anni che si parla di pressione fiscale, eppure è sempre lì, anzi, l'insofferenza dei cittadini verso una tassazione esosa a cui non corrisponde un livello di servizi efficace sta crescendo. Si continua a parlare di giustizia soltanto perché il Presidente del Consiglio c'ha da fare qualche processo, diversi a dire il vero. Però domando, è mai possibile che io da sindaco debba incontrare delle multinazionali americane che mi dicono: guardi, io investirei volentierissimo qui, il cibo è buonissimo, la terra è bellissima, il clima è meraviglioso, però come faccio? Se poi faccio un investimento e non ho la certezza di poter avere dal diritto italiano un'assicurazione, la certezza del diritto, io non investo. Non è la burocrazia o il costo del lavoro che blocca ed è drammatico la mancanza di giustizia. Ecco, su questi temi, dopo aver detto cambiamo le facce, noi proporremo di cambiare le idee e il modo di esporle. Vediamo se riusciamo a creare un qualcosa, un seme di nuovo per la politica italiana, senza ecco. Ambizioni, senza presunzioni, e ma anche tentando di farlo in missione per conto di Dio. Ecco, esattamente, non siamo i Blues Brothers. Io ringrazio il sindaco di Firenze. L'idea è stata non quella di dire che naturalmente Matteo Renzi è la risposta al distacco della politica degli italiani, no, però il problema è che di qui c'è l'indicazione di un metodo. Io penso che il metodo del unire decisione su cose concrete e anche una programmatica mancanza di rispetto verso le vecchie regole della politica, dove per vecchie magari sono anche quelle della Seconda Repubblica, diverse dalla prima, non sono le vecchie regole, nel senso che la politica deve essere accostumata ad avere uno stile, non è questo il punto. Il punto è però che quando la rappresentanza coincide con leadership personali protratte negli anni a prescindere dai risultati, allora in quello c'è bisogno di rottura. Allora io mi chiedo e vi chiedo, cari ascoltatori, visto che molti di voi ci state inondando di messaggi da parte del centrodestra dicendo che siete distaccati, se questo voi lo trovate davvero nei leader del centrodestra, se è Fini la maniera di fare questa rottura, Fini di centrodestra che poi attacca Marchionne, io non lo capisco, o se invece nella parte più rilevante del corpo elettorale che per 16 anni è andato dietro a Berlusconi, davvero l'incapacità poi di saper dire e mettere Berlusconi anche di fronte all'angolo delle conseguenze di tanti errori, dalle faccende di giustizia personale alle promesse non mantenute, non sia stata questa una delle ragioni poi per cui ogni volta ciò su cui il centrodestra ha preso i voti non è stato capace di fondo di rispettare il suo contratto con gli elettori. A tra poco intanto pubblicità. Eccoci tornati in studio. Gli astenuti di fronte in crescita, di fronte alle incertezze dell'offerta politica, di leader stanchi, di promesse non mantenute, gli astenuti dal vostro punto di vista, cioè da quelli che dice ma insomma più che parlare di queste cose stanche di cui da mesi leggiamo sui giornali, occupiamoci di farla noi l'agenda. Abbiamo sentito il sindaco di Firenze che propone con una rottura di schemi e di comunicazione e di contenuti nel centro-sinistra questa tipologia di risposta al problema degli astenuti. Iniziamo a sentire alcuni di voi, due telefonate in innanzitutto Claudio da Vicenza. Prego Claudio. Buongiorno dottor Giannino. Dica. Claudio, ci sente? Sì, sento bene. Vada. Io sono d'accordo in parte di quel che ha detto poc'anzi. Mi pare di capire che la linea è caduta. Aspetta, la richiamiamo. Cominciamo con Martino da Treviso allora. Martino, prego. Sì, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Sì. Io facevo questa riflessione, ho 35 anni e anch'io sarò uno di quelli che mi asterrò alle prossime votazioni, che siano fra un anno, fra due o fra tre. Fondamentalmente ciò che vedo è che 15 anni c'è al governo la stessa maggioranza, con larga maggioranza si poteva rivoltare l'Italia come un calzino, ma non mi sembra che questo sia stato fatto, per cui l'idea è che il mio voto non valga nulla, che io voti destra, sinistra. Una larga maggioranza per 15 anni poteva fare un'Italia nuova ed essere proiettati al futuro in modo completamente diverso rispetto ad oggi. Non è stato fatto, il mio voto non vale nulla, questa è la sensazione. Si parla di province, si parla di qualsiasi cosa e poi non cambia niente. Grazie. Il mio voto. Grazie a Martino. Sentiamo Bruno da Verona. Bruno, prego. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, a tutti gli ascoltatori, a lei. Un'osservazione sulle considerazioni che ha fatto Matteo Renzi. Io sono un elettore di centrodestra, non ho tutte queste idee così confuse come lui ce le dipinge. Non ho questo distacco dalla politica come lui lo dipinge. C'è sicuramente una sensazione di scoramento, ma non per la politica, ma per come viene gestita la politica. E se vogliamo fare, se dobbiamo andare a fare delle osservazioni corrette, il problema non è la gestione della politica, ma come determinati rappresentanti si comportano. Dal mio punto di vista le idee sono molto chiare. Siamo andati a votare 6 mesi fa, non è che la gente è stata distaccata dalla politica, ha espresso chiaramente le sue posizioni. Si cerca di far passare sempre questo messaggio, ma non è la realtà. E quindi considero fini una patacca politica, bisogna vedere chi se l'attaccherà alla giacca. Grazie. Vediamo Claudio da Vicenza. Sì, buongiorno. Eccoci, speriamo nella linea che tenga, prego rapido. Senta, io vorrei dire un paio di cose, no? Noi abbiamo una classe politica destra, sinistra, centro, cioè io non faccio distinzioni, almeno le cose semplici da farle. Per esempio, io sono d'accordo in parte con quel che ha detto il sindaco di Firenze, cioè questa classe politica che... Cioè, certuni dovrebbero andare a casa perché non servono più niente, come in un'azienda, no? Quando un dirigente non dà più niente deve andare via, cambiare posto, fare un altro lavoro. Noi abbiamo un carico fiscale che supera il 50%, perciò gli onesti come fanno andare avanti un'azienda, no? Che produce, che fa economia reale, come fanno andare avanti? Dopo un'altra cosa, noi abbiamo... Tutte quelle leggi degli accumuli, no? Degli accumuli delle pensioni, eccetera, cioè gente che va a lavorare, che è in pensione, che prende una pensione bassa, no, minima, va a lavorare ancora, cosa fanno? Fanno praticamente l'accumulo della pensione, questi che prendono, ma, cioè essendo in regola, sì. No? E dopo vogliono sconfiggere il nero di quelli che sono in pensione, che vanno a lavorare, cioè... No, io dico sempre, lei dice niente accumulo, serve a capire meglio le cose. Va bene, grazie Claudio. Senta, non so se proprio questo che ha detto è il punto di fondo. Il punto di fondo credo che sia più nelle altre telefonate, cioè la distanza tra il detto e il fatto, che nessun criterio concreto per, a differenza nel lavoro, delle imprese, nella scuola, persino nella scuola dei tanto scassati test che non riusciamo a introdurre, ci deve essere una commisurazione tra ciò che si dice e ciò che si fa e il risultato concreto. Nella politica italiana sembra che questa sia una regola pressoché impossibile. Si è collegato con noi Renato Mannheimer, il presidente dell'Istituto per gli Studi sulla Pubblica Opinione, collaboratore del Corsera, collaboratore regolare di Bruno Vespa a Porta a Porta, e quindi è colui che guida spessissimo gli italiani a capire meglio come i fenomeni si stanno rivelando e manifestando all'interno del corpo della società italiana. Dal punto di vista del suo osservatorio, professore, buongiorno. Il fenomeno degli astenuti è in continuità evolutiva o ci sono fenomeni negli ultimi 2 anni, negli ultimi passaggi elettorali e nei sondaggi recenti che ci fanno capire che è in arrivo una marea nuova di caratteristiche nuove? Lei che dice? Dunque, è difficile capire cos'è in arrivo perché queste cose cambiano molto rapidamente. Tuttavia, allo stato attuale si registra un grosso mutamento nel fenomeno degli astenuti. Sino a ieri gli astenuti erano le parti marginali della popolazione, anziani, persone con basso titolo di studio, che abitavano più frequentemente al sud, dove c'era anche un fenomeno di emigrazione, voglia di ritornare, persone disinteressate dalla politica. Invece, proprio negli ultimi 2 anni, si sta accentuando la quota di astenuti, come si può dire, consapevoli. La quota di astensioni che abbiamo adesso è uguale al sud al nord, c'è una forte crescita di intenzione, ripeto, intenzione ad astenersi tra i laureati, poi vedremo se lo faranno o meno, c'è una crescita di intenzione ad astenersi tra le persone che si occupano di politica, cioè il fenomeno si è allargato e questa disaffezione, questo scontento per il non realizzato di cui parlavate poco fa, ha portato anche ceti che si interessano della politica a pensare che basta, non voglio più scegliere tra questi partiti. La distanza tra il gonfiarsi di questo fenomeno prima dei passaggi elettorali o mentre si formavano le premesse che possono poi condurre a crisi anticipate delle legislature e quanto poi rispetto a quei sondaggi si manifesta davvero nel voto, è una distanza molto elevata, mediamente elevata, o cambia in maniera significativa nelle tornate elettorali degli ultimi anni, professor Mannheimer? Ma cambia specialmente perché la campagna elettorale, pure reiterata, è comunque convincente. Noi abbiamo capito che molte cose che ci vengono dette in campagna elettorale poi non vengono fatte, si è sentito anche dalle telefonate prima, però tutte le volte che sentiamo una campagna elettorale alla fine ci crediamo, quindi io penso che anche questa volta, poi con la campagna elettorale che è particolarmente raffinata da parte di alcune forze politiche, molti tentati e astenuti finiranno con l'andare a votare, ma francamente non sono in grado di fare una previsione. Nel tempo passato una quota andava a votare, una quota non rimaneva, e abbiamo comunque avuto, questo voglio ricordarlo, una crescita dell'astensione dalla diciamo prima Repubblica ad oggi, dagli anni 80 ad oggi, forte, perché la gente non vede più il voto come una manifestazione di propria identità obbligatoria. Una volta c'erano, non so, i comunisti, i democristiani, si votava perché io sono comunista, io sono devo farlo vedere. Oggi c'è un distacco molto maggiore dai partiti e quindi è aumentata l'astensione, e tutto fa pensare che, dipende dalla campagna elettorale, ma potrebbe aumentare ancora. Bene, io a questo punto ringrazio il professor Mannheimer. Grazie. E noi andiamo con le informazioni sulla circolazione stradale, poi torniamo con telefonate e con un'ultima opinione del professor Dalimonti. Eccoci tornati in studio, gli astenuti di fronte alla distanza tra ciò che la politica promette e ciò che la politica fa, gli astenuti di fronte alle delusioni del centro-sinistra che non trova formule e torna al passato rispetto che cercarne di nuove, gli astenuti e i delusi, moltissimi, devo dire la maggioranza tra coloro che ci mandano sms, moltissimi questa mattina, la maggioranza dei delusi viene dal centrodestra, viene dal centrodestra di fronte a quello che è successo innanzitutto nell'accoltellamento reciproco e nell'autocappottamento della maggioranza, perché ormai di questo si tratta, tra Fini e Berlusconi, e nelle delusioni rispetto all'ampiezza del mandato conferito nelle elezioni del 2008 e rispetto poi a ciò che avviene. Quindi diciamo che mi pare che sia da una parte che dall'altra il serbatoio di questo potenziale 40% è molto forte. Sentiamo ancora un ascoltatore, Alessandro da Napoli. Prego Alessandro. Io volevo fare un intervento riguardo appunto all'astensionismo. Io credo che innanzitutto ci sia un immenso disorientamento di tutti gli italiani, me compreso, 35 anni, faccio l'avvocato e ho questa sensazione, cioè non c'è un'idea chiara innanzitutto su dove andare e soprattutto cosa volere. E poi un'altra cosa, la classe dirigente politica sia di destra che di sinistra ha come caratteristica, credo, la farraginosità e l'aleatorietà, cioè una concretezza e soprattutto una compattezza nel modo di pensare e unidirezionale non esiste, cioè li vedo come tanti iceberg che navigano in uno stesso mare, si scontrano ma non arrivano mai a concludere nulla, ognuno diciamo porta l'acqua al suo mulino e servi di un unico padrone, quasi, anzi leverei quasi, ma direi onnipotente, perché a questo punto ha dimostrato di poter fare quasi qualunque cosa, se non qualunque cosa, e credo che Fini sia stato l'unico ad avere alzato la voce. Quindi lei dice comunque un ruolo positivo quello di Fini rispetto a tutto quello che si è visto, almeno guardi, una sana rottura. Guardi, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. No, per carità, ho capito cosa intendo. Sto ancora aspettando un gesto concreto di Fini. Per ora Fini ha fatto solo parole e nemmeno un fatto. Va però bene. Almeno opporsi alla voce del padrone, come dire, è stato già un atto abbastanza coraggioso visto tutto l'enorme mare di attacchi che si è tirato addosso. Grazie Alessandro, ha detto con precisione la sua opinione. Stiamo a Andrea da Milano, rapido. Sì, buongiorno. Io volevo sapere questo concetto, che io sono un astensionista dal voto da più di 10 anni. E con amici, colleghi con i quali mi confronto molto spesso, ecco, viene vista l'astensione dal voto come qualcosa di sbagliato. Sì, sì, in Italia siamo dei partecipazionisti, il sospetto, esatto. Quando non voti, figurati. E invece io vorrei far notare che l'astensione dal voto è di fatto un'espressione di voto, assolutamente. Poi è chiaro che tra gli astensionisti c'è chi si astiene perché non sa magari che si vota. E c'è perché invece perché ci ha fatto un ragionamento. Lei vede elementi nelle cronache politiche recenti per cambiare opinione, di uscire dal partito dell'astensione o ci rimarrà? Io in questo questo momento assolutamente no. La capisco benissimo, Andrea da Milano, la capisco fin troppo bene. Andrea da Ravenna invece che dice, rapido? Sì, buongiorno, ma due considerazioni. La prima è che non penso che le novità possano invertire questo trend, se no la novità del 94 avrebbe dovuto fare un boom di partecipazione, insomma, quale novità più evidente che non la discesa di Berlusconi in politica? Questa sarà proprio la domanda che faccio a Dalimonte, però lei dice no, le novità non daranno la risposta. E allora però... Secondo me... E poi c'è anche un altro dato, purtroppo io sono molto pessimista, io viaggio molto in Europa, in Danimarca, in Olanda, e vorrei esprimere questo dato: noi ci meritiamo chi abbiamo, e ci lamentiamo, ma io, i miei colleghi sono molto migliori di me sotto qualsiasi punto di vista, fiscale, sociale. Noi ci lamentiamo delle classi politiche che abbiamo perché noi siamo come la nostra classe politica. E allora però, Andrea da Ravenna, bisogna fare in modo, io non credo che esistano le determinazioni del DNA degli italiani atavicamente votati all'anomalia, all'anomia, non rispettare qua, non rispettare là. Il problema è semplicemente che, diciamo, siamo arrivati un po' recentemente anche alle organizzazioni politiche di massa, ci siamo arrivati all'inizio del secolo, poi c'è stata la prima guerra mondiale dove è nata l'Italia, il fascismo, l'Italia liberale non era riuscita a portare le masse nella storia, i traumi del fascismo, questo lungo periodo di relativo successo dell'Italia che si rimette in piedi, ma caratterizzato da un blocco politico, quindi noi non è che abbiamo questi secoli alle spalle, la differenza rispetto alla Gran Bretagna è che da quando hanno tagliato la testa a un re e la Magna Carta era del 1215, capite? Insomma, sono secoli di sperimentazione dello Stato moderno della rappresentanza e noi, insomma, decenni e quindi gli apprendisti pagano un prezzo. Professor Dalimonte, a chi dice che l'offerta politica non muta tanto, l'umore degli astenuti e così via, se ricordiamo quello che avvenne in Italia tra 92 e 94, invece fu una grande ventata, o no? Nel 94 c'è stato sicuramente un salto e secondo me è stato anche il motivo per cui la partecipazione elettorale ha tenuto nel 94, ad esempio, nonostante Tangentopoli e tutto il resto. E l'idea di tornare a qualche cosa di paragonabile è un'idea che si può sostanziare in un cambio di legge elettorale? È un'idea che camminava sulle gambe per la Lega del cambio invece di forma Stato, il federale, eccetera, eccetera? Nella realtà, in quello che si vede dei sondaggi, sarà una possibile riforma elettorale, il federalismo o che cosa? A poter camminare di nuovo su quelle gambe di speranza? O non c'è niente nell'offerta quando si vedono nei sondaggi le risposte degli italiani che gli solletichi una voglia di tornare a crederci come allora? Ma la riforma elettorale sicuramente non è un tema che interessa più di tanto gli italiani, credo che siano stufi di questioni che hanno una componente tecnica. Sono passati i tempi in cui nel 93, lei ricorda il referendum, gli italiani si sono aggrappati all'idea che cambiando la legge elettorale potesse cambiare tutto, ma anche quel referendum in realtà è stato un grande mito, perché cosa vuole che... E gli italiani nel 93 sapessero, la massa degli italiani sapesse di sistemi maggioritari, sistemi proporzionali, faccio fatica io a spiegarlo ai miei studenti. No, professor Dalimonte, no. Ma io prendo proprio queste sue ultime parole per chiudere, mi dispiace proprio troncare il ragionamento, perché rispetto ai tanti distillatori di soluzioni per riscaldare il cuore degli italiani, tornando al sistema tedesco, francese, eccetera, lo dico ai vari D'Alema, a tutti i seguaci del terzo polo, ai montezemolisti nuovi e vecchi, io ho l'impressione che gli italiani vogliano risposte concrete sull'economia. E allora torno a dire, siccome è il portafoglio la prima maniera per votare, c'è una maniera che si fa con la Voice, c'è una maniera che si fa con l'Exit, cioè astenendosi e poi, se possibile, anche cambiando paese. Io mi oriento sempre più a quest'ultima cosa. E allora dico, professor Dalimonte, dopo aver ringraziato Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Tulli in redazione, Franco Piantanita, grazie a cui siamo andati in diretta, e aver ringraziato anche Matteo Renzi, il sindaco di Firenze, che torno felice e contento a cantare l'inno britannico, santo è Dio. Hail our gracious queen, long live our noble queen, God save the queen. Send her victorious, happy and glorious. diversamente oggi.